Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, questo è quanto mi è rimasto della mia voce, quindi senza voce ma non senza sommario, andiamo subito a sentirlo. Alla prevenzione non basta il bikini. Vaccino antilinfoma, approvata la sperimentazione clinica. Buone nuove dal sottobosco, le proprietà del Ribes Nigrum. Peter Bescapè, che regia la parte tecnica, cercherà di migliorare al massimo la mia voce. Laura Vanossi in redazione. Oggi una puntata al femminile. Parleremo di prevenzione, lo faremo con l'aiuto di tante esperte che ci aiuteranno ad occuparci della nostra salute a 360 gradi. Ma intanto, prima di affrontare il tema del giorno, parliamo della notizia del giorno, l'influenza suina. In linea con noi la dottoressa Salmaso, direttore del Centro di Epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Dottoressa, è allerta mondiale e il virus è sbarcato anche in Europa, ma le autorità competenti tranquillizzano. Al momento per il nostro paese il rischio è basso e nel caso siamo pronti a intervenire. Ma quanto è cattivo questo virus? Leggiamo che si tratta di un virus ricombinato. Che cosa significa? Ma è una caratteristica dei virus dell'influenza, quella di rimescolare continuamente il proprio genoma. Questo è il motivo per cui ci dobbiamo vaccinare ogni anno di nuovo anche contro la banale influenza stagionale. Di fatto però ci sono alcune ricombinazioni, alcuni cambiamenti del loro genoma che sono più preoccupanti di altri perché lo rendono più aggressivo. In questo caso è stato riscontrato che l'epidemia in corso in Messico è causata da un virus che prima non c'era, un virus nuovo per l'uomo. Essendo nuovo, la popolazione mondiale è suscettibile e quindi si può diffondere in modo efficiente. Ma rispetto alla aviaria, che tanto ci aveva fatto paura e che poi in concreto ha provocato pochi danni, l'influenza suina è realmente più minacciosa o anche in questo caso l'emergenza rientrerà rapidamente? Ma sono due situazioni un po' diverse, perché l'influenza aviaria di fatto, grazie a Dio, era semplicemente un'infezione virale che provenendo dal mondo animale occasionalmente poteva infettare l'uomo e non si è mai verificato quel passaggio conclamato per cui diventava un virus dell'uomo. In questo caso invece l'influenza che abbiamo osservato è stata portata alla ribalta, all'osservazione, proprio perché è in grado di causare estese epidemie per l'uomo. Dottoressa, al momento nessun caso in Italia, ma c'è la possibilità che un qualche caso arrivi. Nel concreto, che cosa possiamo fare noi? Quali sono i consigli? Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva già da tempo dato una sorta di scadenzario su cosa fare in ogni fase e in questo caso ci sta dicendo: attivate le contromisure previste per la fase attuale, che è la fase 4. Adesso noi ci aspettiamo che magari ci sia qualche caso importato, ma sono già in moto tutta la macchina per in qualche modo circoscrivere eventuali infezioni importate. E poi certo, se si tratterà di un'infezione che potrà estendersi a livello mondiale, ricordiamoci le pandemie del passato che sono non solo la spagnola ma anche l'asiatica, Hong Kong, quindi epidemie e pandemie di cui già siamo stati testimoni. In quel caso è probabile che quindi queste infezioni virali ce le porteremo in giro per il mondo a lungo, che non si esaurirà immediatamente, però siamo attrezzati con una preparazione che è in corso da anni. Nel quotidiano però per noi non deve cambiare nulla. No, il singolo cittadino non si deve assolutamente allarmare, se non quello di avere un po' di cautela nei viaggi e seguire le raccomandazioni dove l'epidemia in questo momento è veramente in fase di diffusione massima. E poi continuare ad adottare quelle normali regole che possono sembrare anche banali, ma di buona igiene personale, del tipo di usare fazzoletti quando si starnutisce e coprirsi mano e bocca, cercare di lavarsi spesso le mani. Spesso le mani è ancora uno dei più potenti sistemi di prevenzione, per quanto banale possa essere. Prima di lasciarci, ci dica due cose, due o tre messaggi da portarci dietro con noi per non cadere nella trappola del panico da notizia. Beh, da una parte allora diciamo, i media parlano di febbre suina, in realtà il maiale ormai c'entra ben poco, è semplicemente un virus nuovo per l'uomo che si sta diffondendo, e quindi non avere timore invece degli animali e dei prodotti di origine suina. Nei paesi come gli Stati Uniti, in cui sono verificati dei casi, la letalità è molto bassa, non è morto nessun paziente, solo in Messico ci sono state dei decessi, ma quindi sembra che la situazione sia abbastanza controllabile, e di fatto semplicemente non pensare a una eventuale pandemia come al disastro della spagnola, ma pensare che è passato tanto tempo e siamo abbastanza pronti ad affrontarla. Dottoressa Salmaso, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Grazie, arrivederci, buon lavoro. E noi andiamo al tema del giorno. Oggi parliamo di prevenzione al femminile, lo faremo a 360 gradi. Il titolo che abbiamo dato alla puntata è proprio: alla prevenzione non basta il bikini. Non ci concentreremo solamente su seno e utero, ma andremo oltre. Ci occuperemo del nostro cuore, ci occuperemo anche della salute delle nostre ossa. Noi sappiamo, i dati lo dicono, che le donne in Italia vivono più a lungo, abbiamo aggiunto quindi anni alla vita, ma siamo anche state capaci di aggiungere vita e qualità a questi anni? È una domanda che rivolgo a voi da casa, 800 24 00 24, ma che giro anche a Francesca Merzagora, presidente dell'Osservatorio sulla salute della donna. Buongiorno e bentornata. Buongiorno Nicoletta. Allora, come stiamo? Ma dunque, la salute della donna è cambiata perché è mutato il suo ruolo nella società. Le donne sono sempre più presenti nel mondo del lavoro, se vogliamo meno aiutate in casa, no? Siamo sempre più attivi su più fronti contemporaneamente, e questo porta inevitabili situazioni di stress che hanno un riflesso negativo sulla salute. Le donne vivono più a lungo, come ha detto lei, ma vivono peggio, si ammalano di più perché alcune malattie sono proprio legate all'invecchiamento, e poi sono curate paradossalmente con dei farmaci che non sono stati testati specificatamente su di loro. Tra l'altro, talune patologie a un tempo erano considerate appannaggio esclusivo dell'uomo, tipo le malattie cardiovascolari, e invece vedono le donne in prima fila. Noi spesso ci occupiamo della salute di tutta la famiglia, degli amici, parenti che gravitano intorno a noi, dispensiamo cure e consigli, ma quindi la salute è in cima ai nostri pensieri, ma quando si tratta di parlare della nostra salute, di occuparci della nostra salute, rischiamo di fare la figura di quelle che predicano bene e razzolano male. Beh, e qui potrei portarvi dei dati di un'indagine che Onda ha condotto in collaborazione con Eurisco, proprio sulla salute delle donne. La salute è in cima alla lista delle priorità femminili, ma una donna solo su tre è attenta alla prevenzione. E quel che è peggio è che il 20%, cioè una su cinque, non la segue per problemi economici. E più della metà del campione non si sottopone nemmeno agli screening oncologici. E un altro dato interessante è che quasi 7 donne su 10 evitano addirittura i controlli consigliati. Quindi, come dire, c'è un'attenzione alla prevenzione, ma c'è un qualcosa che ti blocca, no? Nel poi metterla certo. In pratica. Lo chiediamo anche alle nostre amiche da casa, 800 24 00 24, vi controllate? E se non lo fate, perché? Raccontatecelo, oppure potete come sempre scriverci un messaggio al 349 238 6666. Dottoressa Merzagora, Onda ad anni alterni pubblica un libro bianco sulla salute femminile. È un libro verde che offre spunti propositivi. A settembre esce la seconda edizione del libro bianco. Ci vuole dare qualche anticipazione? Sì, è molto interessante, perché anche se sono passati solo 2 anni dalla prima edizione, proprio il professor Ricciardi ieri ci raccontava che sono emerse delle differenze nella salute femminile. Il libro bianco analizza le diverse problematiche di salute nelle varie regioni italiane. Allora analizza gli screening, analizza la diffusione di determinate patologie, e quindi non vorrei dare anticipazioni in questo senso. Lo presenteremo ai primi di settembre, ma sicuramente è un quadro completo della situazione di salute delle donne italiane. Dottoressa Merzagora, io la saluto, ricordo il sito di Onda, l'osservatorio che si occupa della salute delle donne con un occhio molto particolare della medicina di genere. Dottoressa Merzagora, a presto, buona giornata. Grazie, a presto, arrivederci. Ed ora è tempo di presentarvi le nostre esperte che oggi ci aiuteranno a capire come prenderci cura della nostra salute, come controllarla, quando effettuare i controlli. Vi rinnovo l'invito a chiamare il nostro numero verde se avete dei sintomi, se avete fatto di recente un esame, se se vi controllate spesso, diteci perché. Se non vi controllate mai, spiegateci un motivo perché lo fate. 349-238-6666. Qua in studio con me è tornata a trovarci la dottoressa Giovanna Gatti, senologo all'Istituto Europeo di Oncologia, all'OIEO di Milano e presidente del Forum Italiano di Europa Donna. Bentornata. Grazie, buongiorno. In linea con noi è la professoressa Rossella Nappi, ginecologa, endocrinologa e sessuologa all'Università di Pavia. Bentornata anche a lei. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E il nostro cuore lo affideremo alla professoressa Maria Grazia Modena, direttore dell'Istituto di Cardiologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti, ciao Nicoletta. E non trascureremo naturalmente anche la salute delle ossa, come vi ho anticipato. Qua ci vorrebbe anche, dovremmo parlare anche della salute della nostra voce, ma abbiamo in programma una trasmissione la prossima settimana. Parleremo della salute del nostro scheletro. Ci raggiungerà la professoressa Maria Luisa Brandi, che è direttore dell'unità operativa delle malattie del metabolismo osseo dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze. Allora, partiamo da un concetto molto semplice, un concetto chiave. La prevenzione non ha età, funziona per tutte le età, ma ci sono diversi livelli di prevenzione. Si parla infatti di prevenzione primaria e secondaria, ce ne sarebbe anche una terziaria, ma fermiamoci ai primi due. La prima, la prevenzione primaria, dura tutta la vita e vale per tutti. Riguarda infatti la riduzione dei fattori di rischio e l'impegno ad adottare uno stile di vita sano. Professoressa Modena, tradotto in pratica, mi aiuti lei? Tutti sappiamo che la menopausa, quella che in genere decreta la fine della protezione per la donna, ma ahimè le cose stanno cambiando, l'ha detto Francesca Mertagora, la donna oggi ha un ruolo sociale diverso, la donna è overcommitted, come diciamo noi adesso, lavoro, famiglia, carriera, figli. Allora, una raccomandazione, bisogna cominciare presto, invece la donna oggi comincia presto ma male, cioè attivissima ma fuma, fa poca attività fisica, oppure un concetto particolare, va in palestra magari a fare cose pazzesche, bodybuilding, acqua gym, mentre si vedrebbe sempre una sana attività costante, molto meglio camminare a passo veloce 20 minuti o mezz'ora al giorno, camminare veloce o jogging, non camminare da vetrine, e questo manterrebbe il nostro apparato cardiovascolare sano, perché abbassa la glicemia, abbassa il peso, abbassa il colesterolo, migliora la pressione minima e migliora il nostro buon umore, perché fa scatenare la formazione di endorfine cerebrali che ci fanno sentire allegre e in forma. La donna fuma molto più dell'uomo, fuori dagli ambienti di lavoro vediamo donne scannate che fumano in modo incredibile, la donna, le ragazze giovani lasciano andare a droghe leggere, guardate che le droghe leggere e il fumo sulla parte cardiovascolare sono dei tremendi killer, perché danno vasocostrizione e favoriscono gli spasmi coronari, ci vediamo oggi dei infarti in giovani persone, ahimè. Poi una cosa forse che sembra strana dire, però questo overcommitting, questo volere fare tutto e presto, spesso fa rimandare la gravidanza. Io penso che una donna deve decidere quando avere figli, deve programmarlo, perché rimandare la gravidanza fa sì che le donne mantengono più organismo. La professoressa Modena la sentiamo un po' male, intanto mi sembra che la professoressa Modena lanci una bella palla alla professoressa Nappi, intanto che noi magari dalla regia riprendiamo la comunicazione con la professoressa Modena. Professoressa Nappi, la professoressa Modena ha sottolineato fumo, fattori di rischio e l'importanza dell'attività, ma ha puntato il dito anche sul discorso gravidanza. Che cosa si sente di aggiungere? Ma direi fondamentalmente che oggi la donna è purtroppo un pochino forzata a pianificare la gravidanza più avanti in età, perché comunque ha bisogno di realizzare anche alcuni obiettivi e non sempre è così facile riuscire a mettere insieme tutti i pezzi della propria vita. È certo che una gravidanza tardiva, soprattutto dopo i 35 anni, come sempre più spesso si osserva, si accompagna a problematiche maggiori. L'organismo femminile è disegnato per affrontare questo grande evento quando è giovane, quindi quando il suo corpo e la sua biologia è al top della performance. La gravidanza è un grande momento, come diceva Maria Grazia, di adattamento del sistema cardiovascolare e anche e soprattutto del sistema metabolico, quindi grassi e zuccheri in quel momento vanno incontro delle modificazioni diverse in base all'età, e dunque riprodursi più tardi ha dei rischi maggiori sia per la madre durante la gravidanza e poi nel futuro, e sia anche per il bambino, e dunque dobbiamo fare un planning, diciamo così, che ci permetta, tra le altre cose, anche di mantenere la fertilità, perché quando tu mi parli di prevenzione, e allora io mi concentro sullo slip del bikini, perché abbiamo la dottoressa Gatti per la mammella, io ti dico che in questo rimando che noi abbiamo della gravidanza, nel frattempo possiamo ammalarci di patologie dell'utero, come per esempio i fibromi, che sono una patologia semplice ma che possono impattare con la fertilità della donna adulta. Possiamo naturalmente ammalarci, perché no, anche di infezioni a trasmissione sessuale che possono alterarci le tube, e di tante patologie che interessano la funzione ovulatoria. Ricordati che lo stress interferisce tantissimo con le nostre, certo, mestruazioni, il nostro ciclo mestruale, e dunque questa donna, hai capito, sempre più, come diceva Maria Grazia, overcommitted, si trova tra mangiare male, lavoro a ritmi pazzeschi, magari appunto l'attività fisica non sempre centrata sulle sue vere esigenze, e la fertilità ne risente ampiamente. Quindi, come quindi vedi, l'invito, il progetto, certo, l'invito è chiamateci, parliamone insieme, abbiamo tante esperte a nostra disposizione. Andrei con la dottoressa Gatti alla prevenzione secondaria. Descriviamola rapidamente, ci vengo alla prevenzione secondaria, il nostro pensiero va subito ai controlli, ma molte ascoltatrici ci stanno scrivendo, si parla di prevenzione, ma come si può fare per prendere un appuntamento? Corrono mesi e mesi, oppure si può andare a pagamento, si trova subito al posto, ma non sempre ci sono i soldi. Questo è uno dei tanti sms che arrivano riguardo ai controlli che ciascuno di noi vorrebbe fare, magari non fa, proprio perché i tempi sono lontani. Ma alcuni controlli sono necessari, ci sono delle cadenze. Dottoressa Gatti, mi affido a lei. Il problema esiste perché non tutti gli esami senologici, quindi ecografia e mammografia, possono essere fatti con la cadenza classicamente indicata per la prevenzione, quindi cadenza annuale con il sistema sanitario. Questo perché è necessario razionalizzare la spesa sanitaria. È vero però che ormai si è visto che la donna, per fare prevenzione secondaria, quindi diagnosi precoce, perché sì, è questo, dovrebbe una volta l'anno sottoporsi sulla base della propria fascia d'età o ad ecografia mammaria, di solito se ha un'età inferiore ai 40 anni, senza poi abbandonare l'ecografia mammaria dopo i 40, perché sì, è comunque importante. Esistono tumori cosiddetti ecografici, perché si vedono solo con l'ecografia. E poi dai 40 anni in poi si dovrebbe sottoporre a mammografia, che inizialmente ha cadenza biennale e poi dai 50 dovrebbe diventare annuale. Verissimo che esistono le liste d'attesa, verissimo che alcune regioni non consentono ai medici di medicina generale di prescrivere annualmente la mammografia oppure l'ecografia mammaria a titolo di screening. Questo perché esistono già screening biennali basati su mammografia, che è vero, funzionano molto bene, sono eccellenti, ma quell'anno e mezzo è un anno che dagli screening è scoperto. Ci sono persone, ci sono donne che seguono la prevenzione primaria e trascurano quella secondaria. Ci sono donne che vivono, non hanno alcuna cura per il loro stile di vita, il loro stile alimentare e si controllano molto. Ci sono persone che non fanno né l'uno né l'altro. Allora, ABC, a quale di questi tre profili appartenete? 824 0024. Intanto noi abbiamo pensato di seguire il viaggio di una donna partendo da donne molto giovani. In linea con noi abbiamo Roberta Scardola, che è una giovane attrice, volto la Carlotta dei Cesaroni, ma l'abbiamo vista crescere in TV perché è stata protagonista di tanti episodi di serie televisive. Roberta, ciao, benvenuta. Ciao, grazie, benvenuti, grazie. Allora, Roberta, bella e giovanissima, se io ti dico prevenzione, tu a che cosa pensi? Ma io vi stavo ascoltando con molto interesse. Beh, io in primis penso ad uno stile di vita comunque con abitudini sane, abitudini salutari, mi viene in mente, ecco, lo stavate dicendo, una buona alimentazione, perché comunque ho imparato che mangiare bene comunque aiuta anche a prevenire malattie come ad esempio il diabete o l'obesità o comunque l'infarto. Poi mi viene in mente un'attività fisica comunque moderata e magari, ecco, quelle 3-4 volte a settimana. O mi viene in mente ancora, non so, per dirti, ecco, quelle quelle quindi, abitudini che comunque procurano piacere, però poi possono avere ricadute negative sulla salute, ad esempio il fumo. Certo, come accennava la professoressa Modena. Allora, io prendo l'opportunità di avere qua Roberta e quindi di mandare un messaggio alle ragazze giovani. Roberta è giovanissima, abbiamo diviso il nostro campione fino ai 25 anni, dai 25 ai 40, oltre ai 40. Avremo nel corso della trasmissione testimonial per ciascuna fascia d'età. Allora chiedo rapidamente, con un giro di tavola, alla professoressa Nappi, alla professoressa Modena e alla dottoressa Gatti di dare un messaggio di prevenzione e anche alle ragazze così giovani. Iniziamo dalla professoressa Modena. Il cuore giovane, ma professoressa? Il cuore giovane va mantenuto fondamentalmente giovane esclusivamente con l'attività fisica e con lo stile di vita. È fondamentale, perché questa è la prevenzione primaria vera. Secondaria in cardiologia vuol dire che uno ha avuto un evento, quindi deve curare perché ha avuto un infarto, un ictus e cose del genere. Rarissimo un evento cardiaco in età giovane. Può esserci, però attenzione, durante la gravidanza è legata agli ormoni, ma è rarissimo. Ma quindi noi passiamo alla seconda, ne parleremo subito, esatto, dopo i mercati. Professoressa Nappi, a flash, abbiamo un minuto da dividere tra lei e la dottoressa Gatti per occuparci di questa fascia d'età, su cui poi torneremo stimolati dalle telefonate delle nostre ascoltatrici. Che cosa è importante sottolineare? Molto spesso in quest'età c'è l'inizio di un'attività sessuale, professoressa Nappi? Bisogna essere attenti. Quando si inizia l'attività sessuale, anche se si è scelto di fare contraccezione sicura, sempre, soprattutto quando si balla con uno sconosciuto, l'uso del preservativo. Le malattie a trasmissione sessuale sono lì in agguato e possono veramente crearci dei problemi, sia sulla fertilità sia sul versante oncologico in futuro, quindi il rischio di tumori. Dottoressa Gatti. Autopalpazione mensile e visita dal medico di medicina generale una volta l'anno. E allora grazie a Roberta Scardola per essere stata con noi. Prima di continuare a parlare del tema del giorno, che vi ricordo oggi è prevenzione al femminile, ci colleghiamo col dottor Oscar Burrone, responsabile del laboratorio di immunologia molecolare del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie di Trieste. Dottore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Dottore, siamo qua per dare una buona notizia. Avete avuto l'autorizzazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità per la sperimentazione clinica del vaccino antilinfoma. Ci racconti? Questa, sì, esattamente come dice lei, abbiamo avuto l'autorizzazione per iniziare questa sperimentazione clinica, che in realtà verrà iniziata all'ospedale Santa Chiara di Pisa dal gruppo del professor Mario Petrini, il Dipartimento di Ematologia, perché questo è un vaccino che abbiamo sviluppato con l'idea di poter eliminare le cellule di un particolare tipo di tumore, che è il linfoma di non Hodgkin a cellule B, particolare tipo di linfoma. E questo è un vaccino nel senso che va ad agire sul sistema immunitario, stimolando il sistema immunitario del paziente e far sì che questo sistema possa eliminare le cellule tumorali. Dalla sperimentazione alla pratica, quanto tempo bisognerà aspettare? Ci sarà una prima fase come questa che inizieremo adesso, che comporta soltanto 12 pazienti, e quindi noi dovremo prima capire come, se le cose entro l'anno avremo qualche idea se le cose stanno funzionando come noi ci aspettiamo, e dopodiché ci sarà ancora un follow up di 2 o 3 anni per i pazienti per sapere come evolve la situazione. Tuttavia, per avere una efficacia, una conoscenza dell'efficacia del vaccino, bisognerà aspettare studi con molti più pazienti e qualche anno in più. Quindi io direi che non prima di 5 anni avremo la possibilità di dire questo sta funzionando veramente bene e potrebbe utilizzarsi per tutti i pazienti. Dottore, ma se questo accadesse, fra 5 anni questo vaccino risolverebbe, curerebbe alcuni malati di linfoma non Hodgkin? Sì, l'idea è proprio quella, perché è un vaccino curativo, proprio questo, non è un vaccino preventivo, nel senso che va ad agire nelle persone che hanno già la malattia, e anche una caratteristica particolare di questo vaccino è il fatto che è paziente specifico, cioè è un vaccino che va prodotto per ogni paziente, perché la proteina bersaglio, diciamo, che noi utilizziamo nel vaccino è diversa da un tumore all'altro. Bisogna ingegnerizzare ogni volta il vaccino per ogni paziente. Quindi un vaccino su misura che, se tutto procede come vi state aspettando, entro 5 anni potrà curare i malati di linfoma non Hodgkin. Dottore, io la ringrazio, complimenti, incrociamo le dita e speriamo. Buon lavoro. Arrivederci, buongiorno. Prevenzione, alla prevenzione non basta il bikini, e questo è il titolo che abbiamo dato alla trasmissione di oggi, in cui vogliamo dare consigli di prevenzione primaria e secondaria alle ascoltatrici, che invito a chiamarci per qualunque dubbio, consiglio, magari una regola, che magari una data che vi sfugge. 800 24 0024 abbiamo a disposizione una senologa, una ginecologa, una cardiologa. Tra poco ci raggiungerà anche un'esperta per occuparsi della salute delle nostre ossa. La mia voce peggiore, ma arrivano molti messaggi che mi tirano su, quindi continuate a scrivere 349-238-6666. Andiamo a Bologna, ci aspetta Giuliana. Giuliana, buongiorno Giuliana. Buongiorno a tutti, buongiorno. Io vorrei fare una domanda e aprire un po' il capitolo delle mastoplastiche, quindi dei seni ricostruiti. Volevo sapere quali indagini erano più appropriate, perché dopo una certa età, appunto, la dottoressa, la senologa, ha consigliato la mammografia. Io quest'anno per la prima volta mi sono sottoposta a mammografia, ma il tecnico che l'ha eseguita ha detto che l'indagine, insomma, non si vedeva nulla, appunto, per la protesi. E mi ha consigliato di fare una risonanza e di ripeterla una volta all'anno, che insomma è un'indagine anche un po' particolare. Certo. Volevo sapere se era idonea e Giuliana, lei quanti anni ha? Quella giusta. Sì, Giuliana, mi scusi, la sua età? 42. 42. Grazie Giuliana. Dottoressa Gatti? Bisogna vedere dove è messa la protesi, se è sottocutanea o sotto il muscolo pettorale. In ogni modo, la mammografia di solito può essere eseguita, in media può essere eseguita bene e vede anche bene. La risonanza magnetica vede molto bene i profili della protesi, però non può sostituire la mammografia. Silvia ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato e grazie per la trasmissione. Io ho 41 anni e vorrei chiedere, siccome mi sono accorta negli ultimi mesi, quando sono vicina al ciclo o durante i giorni del ciclo, di avere frequenti tipo tachicardia o aritmia, vorrei sapere se questo è collegato agli ormoni, insomma al ciclo, o se mi devo preoccupare. Grazie, una domanda in cui coinvolgerei la professoressa Modena, perché Silvia ci parla di aritmie, ma anche poi la professoressa Nappi. Professoressa Modena. Nessun allarme, proprio il ciclo ormonale che dà vasodilatazione, quindi il cuore compensa con tachicardia. Quindi nessun controllo da fare, per fortuna, l'attività fisica sempre consigliata nonostante il cuore ogni tanto faccia dei saltini. Professoressa Nappi, vuole aggiungere un'indicazione? Concordo con Maria Grazia sul rischio cardiovascolare. È chiaro che questo potrebbe essere un segnetto di un'iniziale modifica dell'equilibrio che esiste tra gli ormoni del ciclo mestruale, e dunque magari cominciare a guardare quanto tempo dista in linea teorica dalla menopausa potrebbe essere utile con il proprio ginecologo per migliorare questo momento. Andiamo a Firenze, ci aspetta Carlotta, buongiorno. 800 24 0024, benvenuta. Buongiorno, grazie mille, ringrazio per la trasmissione perché è di estremo interesse. Io ho perso mia madre quando avevo 22 anni di cancro e avevo mieloma multiplo. Questo mi ha estremamente sensibilizzato, certo, alla materia della prevenzione, e infatti io ad oggi ogni anno faccio un check-up per controllare eventuali disturbi ai vari sistemi. Mi trovo un po' impreparata, invece mi ha interessato molto un'espressione che avete usato, cioè programmare una gravidanza. Visto che ho 29 anni e mi piacerebbe molto avere magari più di un figlio, certo, mi trovo un po' impreparata sui tipi di esami preparatori e di supporto che posso intraprendere, cioè che posso avere come non garanzia di salute, però certo, comunque di supporto. Carlotta, la ringrazio perché ci permette di tornare su un aspetto molto importante che è stato sottolineato dalle nostre ospiti. Professoressa Nappi, passo a lei la parola. Abbiamo usato una parola programmare che poi in realtà non è così facile, perché ovviamente la gravidanza dipende anche dal partner che ci scegliamo. E dunque quello che possiamo fare è certamente essere certi che il nostro apparato genitale sia ok in termini di funzione ovulatoria. Questo si può fare con un banale esame del sangue e anche con un'ecografia pelvica che ci può dimostrare che la morfologia degli organi è corretta. Poi è chiaro che prevenire le infezioni o fare un check-up, per esempio su una positività per un agente patogeno molto critico che è la clamidia, che può interferire con la funzionalità delle nostre tube e quindi ridurre la fertilità, può essere utile, questo da un punto di vista ginecologico. Nella salute generale naturalmente mantenere i fattori di rischio bassi e naturalmente non fumare, tutte le cose che ci siamo dette sinora. In linea con noi è venuta a trovarci Gea Lionello. Ciao Gea, grazie. Buongiorno a tutti. Attrice, protagonista dei Rischi, ora tra l'altro sta lavorando a un nuovo progetto, questa volta una commedia con Massimo Boldi. Sì. Io ho invitato Gea perché è testimonial di due campagne sociali a favore del Centro Oncologico Ligure per la prevenzione del tumore alla mammella. Gea, quindi tu come testimonial credi molto nella prevenzione secondaria, ma io ti metto a disposizione tre esperte a cui puoi chiedere consigli di prevenzione primaria o secondaria. Allora, intanto buongiorno, per fare una domanda, insomma io sono abbastanza informata su quello che si deve fare appunto come prevenzione, però ecco mi piacerebbe sottolineare un punto sempre riguardante la mammella, perché vedo che parlandone con amiche insomma non sono molto informate di questo, cioè che sì. Praticamente una mastopatia, quindi diciamo delle ghiandole infiammate e dense che possono provocare dolore al seno, non hanno nessuna attinenza con delle forme tumorali o cisti, cioè sì, potrebbe essere, magari potrebbero venire delle cisti, perché no, questo volevo sapere, se un seno appunto con queste ghiandole dolorose eccetera è un sintomo, insomma ecco bisogna controllarlo di più di un altro. Allora Gea, noi bella domanda alla dottoressa Gatti che riassume tanti sms che sono arrivati al 349-238-6666. E siamo tornati insieme, dottoressa Gatti, Gea Lionello e molte delle nostre ascoltatrici aspettano un'indicazione, una rassicurazione. Sì, la mastopatia fibrocistica, quindi la presenza di addensamenti a volte molto dolorosi o dolenti e anche di cisti, non è una condizione che predispone maggiormente a tumore al seno, quindi non è una condizione di rischio. Gea, tra i fattori di rischio che tieni sotto controllo, quale ti risulta più difficile? Purtroppo il fumo, nel senso che ho iniziato molto presto a fumare e avevo smesso, ero riuscita a smettere per un anno e devo dire veramente un'altra vita, nel senso che proprio sta veramente bene senza, però è purtroppo un vizio in cui si può ricadere molto facilmente, anche perché la nicotina è molto, certo, è una sostanza che arriva al cervello molto velocemente, di cui si diventa dipendenti in un attimo, è anche molto semplice uscirne, sì. Quindi gli esperti Gea dicono che l'importante è provare a smettere, poi se ci si ricade non importa, si può ritentare. Ma Gea, volevo coinvolgere la professoressa Modena. Il fumo sappiamo fa male alla nostra salute in generale, ai polmoni, ma fa male anche al nostro cuore, e il fatto che le donne continuino a fumare, abbiano ripreso a fumare, è sicuramente uno delle cause dell'aumento di alcune malattie dell'apparato cardiovascolare. Scolare. Così, professoressa Modena? Certo, la donna sta aumentando sempre più il fumo e come vede Nicoletta la visione a bikini continua, le donne hanno più paura del seno e non lasciano il fumo, che è il peggior fattore di rischio che esista. E così, allora noi intanto ringraziamo Gea Lionello per il suo impegno, per essere venuta con noi, continueremo a seguirti e ti invitiamo a restare con noi in una delle prossime trasmissioni. Volentierissimo, intanto, intanto buona giornata. E vorrei andare ad Anna da Monza, buongiorno Anna. Buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato. Allora, la mia domanda è questa, io ho 63 anni, faccio la mammografia ogni due anni. Sì. Con lo classico che chiamano dall'ASLA. Sì. Mia sorella invece che ne ha 67, lei non so per quale ragione l'ha sempre fatta tutti gli anni e a gennaio gli hanno trovato un tumore al seno, sì, di 7 mm stata operata un mese fa, tutto bene, niente chemio, pastiglie, e regolarmente ogni sei mesi, ogni, non so, tre, quattro, sei mesi, sì, i controlli. Prima, siccome ho acceso in ritardo, mi è sembrato di aver capito che il medico di famiglia non può far fare la mammografia tutti gli anni. Io adesso mi sento un po' nuda, nel senso, sì, che se, cosa devo fare? Non, se non ho assistenza in questo senso, me la devo pagare da sola oppure da qualche parte posso farla? Grazie Anna. Grazie. Dottoressa Gatti. In caso di dubbio, quindi quando esista un sospetto da chiarire con mammografia, il medico di medicina generale può prescrivere in Lombardia la mammografia per chiarimenti. In questo momento storico è più difficile per i medici di medicina generale in Lombardia prescrivere la mammografia ogni anno per diagnosi precoce. Questo per una ragione di spesa sanitaria e è una decisione della Regione Lombardia molto recente, peraltro. Però, come dico sempre alle donne, è vero, gli esami dovrebbero essere tutti passati di diritto dal sistema sanitario. Noi donne dobbiamo essere un pochino protagoniste della nostra salute, quindi ove la regione non riesca, non voglia, ma non riesca a fornirci annualmente l'esame, noi sappiamo che ci è utile in ogni caso, probabilmente per ora possiamo anche pensare di investire in salute una volta l'anno con un esame. E abbiamo anticipato che ci saremmo anche occupati della salute delle nostre ossa. In linea con noi abbiamo la professoressa Maria Luisa Brandi, direttore dell'unità operativa delle malattie del metabolismo osseo dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze. Dottoressa Brandi, professoressa Brandi, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Io vorrei da lei delle... Allora, ci occupiamo delle nostre ossa dopo gli ante. In realtà dovremmo farlo prima, ma iniziamo a dare un consiglio di prevenzione e di controllo alle donne che gli ante li hanno superato. Poi eventualmente torniamo indietro. Beh, sicuramente l'osso noi lo costruiamo fin da bambini, lo dobbiamo mantenere nell'età adulta e dobbiamo cercare di non perderlo quando, nei momenti in cui sappiamo che esiste una causa per la perdita. Uno di questi momenti è proprio la menopausa, o comunque il periodo intorno alla menopausa, la chiamerei proprio perimenopausa, perché l'osso si comincia a perdere quando i nostri estrogeni cominciano a scendere. Questo avviene già prima della menopausa, quando l'ovaio non dà segni di non sufficienza nella sua funzione, noi cominciamo ad avere cicli che non sono più così regolari e quindi già da quel momento il nostro osso comincia a perdere. Professoressa Brandi, mi scusi, noi in tutto questo non abbiamo sintomi, non abbiamo dolori o ci sono delle avvisaglie? E come, qual è l'esame che ci permette di controllare la salute delle nostre ossa? Intanto non abbiamo sintomi quando cominciamo a perdere, però abbiamo delle informazioni, che sono per esempio la nostra famiglia, il nostro stile di vita prima. Mettiamo che noi siamo state persone che hanno avuto per esempio abitudini alimentari non regolari tutta la vita, che la nostra mamma si è fratturata il femore, e quindi abbiamo delle informazioni noi che dovremmo, di cui dovremmo far tesoro se le conosciamo. E per individuare invece la perdita, l'esame che noi dobbiamo fare è un po' come la mammografia per il tumore mammario, è in realtà la densitometria che misura la quantità di minerale nel nostro scheletro. Quindi questo è importante, questo è il messaggio per chi ha superato gli anta e si sta avvicinando alla menopausa per valutare la salute delle ossa. Io farei, abbiamo un minuto e mezzo a nostra disposizione, coinvolgerai le mie esperte per dare ciascuna dal proprio osservatorio, anche se la salute non va vista come cassetti separati, ma come qualche cosa di globale, ciascuno dal proprio osservatorio un'indicazione di prevenzione e una di controllo. Iniziamo dalla professoressa Modena. Quanto sono importanti le malattie cardiovascolari? Lo leggiamo dai dati. Le donne, noi donne, trascuriamo sempre il nostro cuore, siamo sempre più preoccupate e occupate del seno e dell'utero. Professoressa Modena, non fumate, fate attività fisica, ma quale consiglio si sente di dare? Fascia che hai detto prima Nicoletta, se c'è una pressione, qualcuno in famiglia con pressione alta, colesterolo alto o glicemia alta e diabete, fare un controllo della pressione una volta al mese, per esempio, di colesterolo, glicemia una volta anche all'anno e poi seguire se ci sono dei problemi. Professoressa Nappi, vengo a lei. Abbiamo dimenticato un esame fondamentale che salva la vita delle donne, il Pap test. Le donne lo fanno, ma sempre di più dovrebbero farlo, soprattutto le giovani, visto che oggi abbiamo sistemi ancora più sofisticati per cercare di fare dei pap test che siano effettivamente dei salvavita. Penso per esempio allo screening del virus dell'HPV, di cui si è molto parlato negli ultimi mesi. Professoressa Nappi, possiamo estendere l'invito anche alle persone, alle donne di una certa età che pensano che arrivate l'età della pensione ormai non ci sia più necessità di controllarsi, invece i controlli continuano tutta la vita, vero professoressa Nappi? Sempre, assolutamente, non pensiamo che quando non ci sono più le mestruazioni non ci sia più nulla da fare. Il ginecologo o l'ostetrica è sempre un interlocutore importante per fare quel primo passo e a volte appunto basta un pap test per salvarsi la vita. Io sono in chiusura, devo salutare la professoressa Brandi che gentilmente è stata con noi da Washington con una levataccia. Torneremo a parlare della salute delle nostre ossa proprio con lei. Saluto anche la dottoressa Gatti che ha rischiato di prendersi anche lei un po' di influenza da me, ma l'ha fatto volentieri, immagino. Sì, certo. Ricordo il sito di Europa Donna. Grazie davvero alle mie ospiti che ci hanno aiutato nel corso di questa trasmissione a prenderci cura della nostra salute. Un saluto da Nicoletta Carbone, ci sentiamo domani. Buona giornata.